Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. In the White House. Insomma, gli anni 10 sono anni in cui succedono cose come queste, no? In the White House, ha detto il cantante in questione, un vecchio signore che si chiama Paul McCartney, intonando Hey Jude insieme a un coretto dove dentro c'era chiunque, insomma, Stevie Wonder, Elvis Costello e, per non farsi mancare niente, President Obama. Hey, I just wanna hear the ladies, just the women, come on. Can't resist hearing that one more time. Come on, ladies. Tutto questo per dire che c'è molto sentimento, c'è anche molta partecipazione, c'è anche molta emotività in giro in America in questo primo anno, l'anno zero degli anni dieci. Succedono cose e si mescolano carte, se possiamo dire così, e man mano che l'anno va avanti questo fenomeno, anziché no, così rallentare, si intensifica. Pensate appunto alla impervia strada che sta percorrendo questo presidente da un anno e mezzo alla guida della nazione più in vista del pianeta, delle cose che gli succedono, al di là dello scavalcare per esempio una terribile crisi economica, ma come fronteggiare adesso questa emergenza nel Golfo americano che rasenta per gravità forse il mettersi di fronte allo squilibrio dell'economia che ha appena scosso l'America. Di fatto non si sa bene cosa fare, come fare, le soluzioni si succedono via l'altra ma saltano come tappi di bottiglia, no? Adesso hanno chiamato anche James Cameron per chiedergli se per caso lui che ha fatto Titanic ha delle idee su come mettere un tappo a quella falla a 1600 metri di profondità. Però succedono cose anche come appunto Paul McCartney che canta alla Casa Bianca con il presidente che fa i coretti insieme alla famiglia, perché c'è uno strano rimescolamento tra politica e società, in un certo senso vanno al passato certe divisioni, si ridisegna la società civile per il ventunesimo secolo, ci sono continue interazioni. Capita per esempio, tornando a parlare di Florida, di coste ormai coperte di lerciume, di petrolio, di inquinamento, di rincontrare quello Spike Lee su cui noi facciamo alcune delle prime trasmissioni qui da Radio 24 ai tempi di Katrina, del post-Katrina, della ripartenza di New Orleans, e di un regista come Spike Lee che appunto provava a raccontare, a storicizzare tutto ciò in un bellissimo documentario. Adesso è tornato sui posti, ha detto che non ne può fare a meno perché ha capito che il dramma non è finito, che c'è un secondo atto forse addirittura più tragico del primo, e si è fatto intervistare da Anderson Cooper di CNN. I thought it was done, but BP they had other plans. So what do you make of what's going on? I mean, you've been down here for days now. People are mad, and rightfully so, and I'm glad that Attorney General Eric Holder is thinking about criminal charges. Questo è Spike Lee che dice: sì, sì, io sono un sostenitore, un ammiratore di Barack Obama, almeno quanto poche ore prima aveva detto di essere, aveva confessato di essere Paul McCartney dopo aver suonato la Casa Bianca. Dice: però a questo punto vorrei tanto che proprio l'emotività, quella emotività a cui abbiamo dedicato questa copertina di colori americani oggi anni 10, che l'emotività una volta tanto prendesse la mano al presidente e cominciasse a menare fendenti a destra e a manca per far capire ai suoi interlocutori in flagranti difficoltà come quelli della BP che non riescono a porre rimedio al disastro ecologico, ma a far capire anche al paese, anche con tutta la retorica che in questi casi può essere necessaria, che al posto di comando c'è uno che a un certo punto è pronto a giocarsela fino in fondo, no? Con tutta l'istintività di un grande leader, ma anche di un uomo vero che davanti a un assurdo, un assurdo planetario come quello che sta andando in scena in quelle acque, fondamentalmente si incavola, si arrabbia, chiama, convoca, raduna, combatte, forse si chiede un po' più di combattimento a Barack Obama come presidente simbolo di questo inizio di millennio. The kiss, the famous exchange during the 2000 Democratic Presidential Convention was to some lovely... Mentre invece va in archivio un uomo simbolo dell'altro millennio, anzi dell'altro secolo, anzi diciamo della fine dell'altro secolo, ovvero Al Gore, no? Nobel, Oscar, quant'altro, soprattutto quel matrimonio così ecologico, no? 40 anni insieme. Rush Limbaugh, il famoso conduttore radiofonico, ha detto adesso non siete neanche più ecologici, farete due case e spenderete il doppio di bolletta, dal momento che Al e Tipper Gore, pare senza secondi scopi, nessuno avrebbe almeno ufficialmente un amante, nessuno avrebbe un'altra storia, semplicemente la loro vicenda matrimoniale si sarebbe logorata. Finisce in un certo senso un'icona della coppia americana, dei baby boomers, della middle class, nella sua espressione più tipica, che però era così tanto XX secolo, e l'abbiamo detto, ormai qui siamo negli anni 10. Anni 10. Parole. Sono stato per molto tempo un tossicomane convinto. Sì, io, Bob, il cocco di mamma, un ragazzo qualunque, uno come gli altri. Io e la mia banda rapinavamo i drugstore. Ce li siamo fatti tutti, su e giù lungo la costa del Pacifico, farmacie aperte e chiuse. Non faceva differenza, tecnica a parte. Drugstore e farmacie rapinate con uno stile così romanticamente banditesco era quello che raccontava questo film, che ha avuto una grande popolarità anche in Italia. Si chiama Drugstore Cowboy, Matt Dillon, la regia veramente virtuosistica in questo caso di Gus Van Sant, e poi questa ambientazione che fu sintomo di un grande tempismo, no, di Van Sant nel partorire questo film, perché era la Seattle che proprio in quegli stessi anni stava esplodendo, soprattutto nell'immaginario giovanile, grazie al suono, alla musica di quella città della West Coast, no, il grunge, il modo di vita, gli ultimi problemi del modo di vita indipendente, insomma fu un piacevole convogliarsi di motivazioni che hanno fatto di questo film una icona piuttosto stabile. E ne torniamo a parlare oggi perché è uscita una notizia piuttosto drammatica, ma in un certo senso anche sintomatica. Allora, Drugstore Cowboy è tratto da un libro, omonimo libro di James Fogel, che non ha mai nascosto granché, insomma, di aver scritto questo libro in termini altamente biografici. Quella è la sua storia, era lui il tossico che rapinava farmacie. La notizia però di oggi, delle ultime ore, è che in realtà pare proprio che James Fogel non abbia mai smesso di rapinare le farmacie, nonostante oggi abbia insomma la veneranda età di 73 anni. Lo hanno appena arrestato, aspettandolo all'ingresso posteriore, avete presente come nei film, no? Loro hanno, lui e il suo socio, un più giovane, 45 anni, si chiama Shannon Benn, ecco, hanno rapinato una farmacia, fondamentalmente fregandosi da bravi tossicomani i prodotti farmaceutici, quindi pesanti, sicuramente pesanti farmaci da assumere. Poi in un secondo tempo hanno riempito due secchi e con i due secchi sono usciti dalla porta posteriore, dove hanno trovato i poliziotti che gli hanno detto: siete in arresto. Pare che i due si siano molto placidamente arresi, abbiano detto, l'esperto James abbia detto: guardate, ho una pistola ma è una scacciacani, gliel'hanno tolta, insomma è andato in in carcere, dove però sono uscite fuori altre cose piuttosto preoccupanti. Lo sceriffo dice: non ho ancora le prove, ma sono praticamente sicuro che sia lui. E che sia lui a far cosa? Ad aver rapinato negli ultimi 10 o 15 anni un altro centinaio di drugstore o di farmacie, chiamatele come volete, in tutta la zona di Seattle, dove per l'appunto il nostro James Fogel ha sempre abitato. Non a caso sulla sua testa è stata messa una cauzione di $500,000, che per un reato di questo genere è tantissimo, ma perché si sono convinte le autorità della zona evidentemente che il reato non sia un pezzo unico, ma che sia invece una lunga serie. Addirittura adesso di Fogel si parla in America Most Wanted, no? Il sito internet, nonché trasmissione televisiva, dove vengono descritti i più pericolosi criminali in circolazione. Pare che a margine di tutto ciò le vendite del libro e del DVD siano naturalmente schizzate verso l'alto. Christopher Hitchens, what's it feel like to be 60? Very much the same as it did to be 59. These are arbitrary dates in a way. Edmund Wilson wrote an article called The Author at 60. He wouldn't even say myself at 60. Eccolo qua, si prende in giro da solo, come gli piace tantissimo fare. Che cosa vuol dire fare l'autore, lo scrittore, il satirista, insomma, la penna d'attacco quando cominciano a suonare i 60 anni. Ne parla in questa intervista uno degli osservatori della società anglosassone, francamente, che prediligiamo, ovvero Christopher Hitchens, che ha appena pubblicato e sta presentando in giro per l'America e l'Inghilterra questa biografia intitolata Hitch 22, no? Facendo così il verso al comma 22, al famoso libro nonché film. Hitch 22 è sottotitolo e memoir, un'autobiografia, un volume corposo, 435 pagine, in cui questa che è stata veramente, credo, la penna più libera del giornalismo inglese e americano, perché poi lui continua a vivere e a interpretare il mondo a cavallo, no, dei due grandi poli anglosassoni. E racconta i suoi inizi di ragazzo con un sacco di problemi, che veniva fatto oggetto di prepotenze e violenze da parte dei bulletti della scuola, finché un giorno si rese conto che a tutto ciò c'era rimedio. C'era rimedio ed era andar dentro fino in fondo, dirla chiara, prenderla di punta a costo di rischiare pure tanto. Venne aggredito da un paio di bulletti della sua scuola e gli cominciò a urlare addosso ogni possibile insulto, e i due, piuttosto perplessi, cominciarono ad allontanarsi. E questo è uno dei primi comandamenti che Christopher Hitchens rilascia in questo suo libro, che è straordinariamente brillante. Un altro che spiega molto presto è il segreto della sua vita, del suo successo professionale, che sta nell'aver capito che se sai dire bene una cosa, se la sai raccontare nel modo giusto e lo sai fare in pubblico, magari davanti a un podio, sostiene Hitchens, probabilmente hai risolto i tuoi problemi economici e forse anche i tuoi problemi sessuali, ci fa capire Hitchens, che pensate un po', negli anni 60, durante i suoi studi oxfordiani, lui è un ragazzo di buona famiglia britannica, si trovò in quella famosa stanza, questo è uno degli episodi che racconta nella sua autobiografia, in quella famosa stanza dove Bill Clinton fumò lo spinello di hashish senza aspirare, e naturalmente lui offre la sua versione dei fatti, ma poi c'era bisogno che ce lo dicesse lui. Comunque il libro è pieno di apparizioni, presenze straordinariamente interessanti da seguire: Martin Amis, Salman Rushdie, James Fenton. Si racconta la genesi del libro che ha trasformato Hitchens da personaggio culto in autore anche di bestseller, che è questo Dio non è grande, no? La religione, come la religione avvelena ogni cosa, un vero e proprio manifesto dell'ateismo. E poi naturalmente racconta i suoi punti di vista sul contemporaneo, l'islamofascismo, le sue visioni del mondo come un luogo dove in linea di massima l'armonia è tramontata molto tempo or sono. In 2006, my daughter was 8 years old at the time. She asked me if she could join me in the afternoons. on my afternoon run. And we'd done this before, and when we'd done it, we'd always sort of done some kind of... Allora, questo signore che sta parlando con questo tuono piuttosto rassicurante, fino a pochi tempi, a pochi giorni fa, poche settimane fa, era un povero, tra virgolette, povero naturalmente, professore di una università di provincia, la Rice University, una università peraltro con una buona reputazione di Houston, dove sbarcava il lunario, ma insomma non aveva prospettive straordinarie, finché un giorno va a fare una passeggiata con la sua bambina e fanno insieme un giochino. Giocano a decidiamo qual è il libro giusto da scrivere. Pensate voi se andando in giro con la figlia bisogna giocare a pensate il libro giusto da scrivere, però loro l'hanno fatto e secondo me, non so se lui o la figlia, l'idea l'hanno avuta. E direi questo piccolo pezzetto della trasmissione di oggi è dedicata a coloro che così pensano di scrivere qualcosa ma sono incerti cosa devo scrivere, ma poi lo leggerà mai qualcuno. La ricetta è semplicissima e il signore, il professore in questione, che si chiama Justin Cronin, Cronin come il vecchio Cronin, ma questo è un altro Cronin, la suggerisce insomma nel modo più esemplare, con tutti i milioni che ha appena incassato. E la ricetta è, ragazzi, nonostante tutto, scrivete libri di vampiri, perché i libri di vampiri, per misteriose motivazioni, hanno riscoperto, hanno riaperto una nicchia di mercato grande, no, come l'oceano Atlantico, nella quale in questo momento naviga gloriosamente The Passage, che è il libro di cui Justin Cronin è autore, storia di una ragazza che si chiama Amy, che diventa vampira in base a degli esperimenti militari, no? che vanno male, creano un disastro nelle sue... Insomma, diventa vampira per colpa dei militari, che poi è una spiegazione anche abbastanza così prevedibile. Questo libro è diventato un caso pazzesco in America. Viene annunciato come il più atteso, il più caldo per la estate editoriale che si va ad aprire. Ha ricevuto quasi 2 milioni di dollari solo per i diritti cinematografici il nostro signor Cronin, da niente meno che da Ridley Scott. La sceneggiatura è già in lavorazione a firma di John Logan, che è colui che ha scritto la sceneggiatura del Gladiatore. Lui è già al lavoro sul secondo volume di The Passage e il trucco sembra semplice, ma non scrivete saggi sul conservatorismo in America, come può venire in mente a qualcuno. Ragazzi, la strada è quella, l'America post-apocalittica è lo sfondo, e poi inventatevi qualche bel nome, io avrei anche delle idee per dei nuovi vampiri, e via tutti in libreria. Don't theorize, look in his eyes, they won't tell lies, but if he defies what you see, he'll give you the key. Be yourself. Be yourself. Be yourself. Anni 10. Suoni. Moved away, you must face yourself and you must say, I remember better days. Don't you cry, 'cause she is gone, she is only moving on, chasing mirrors through a haze. What's to stop you coming home? Parlavamo poco fa di quanto sia difficile per l'America, io ci metterei anche l'Italia di mezzo, no? Staccarsi da certe cose che hanno contraddistinto in modo così intenso la fine del XX secolo. Parlo di gesti collettivi, di grandi cause, parlo di personaggi, di grandi emozioni, parlo anche di musica, ad esempio, e di come il ricambio fatichi, anche perché poi coloro che sono titolari di tutto ciò, per esempio una generazione, per esempio la generazione dei baby boomers, no? Quelli nati dopo la seconda guerra mondiale, che stanno fatidicamente invecchiando, però faticano a togliersi di torno, continuano a occupare, no, lo spot centrale, ad esempio con la loro musica, che resta la grande musica con la G e la M maiuscola, e riescono a convincere di questo, non so come dire, anche l'ambiente circostante. E allora quella nostalgia, parlavamo di Al Gore e della coppia, la brillante coppia americana, no? Tramonta quella, ma tramonta la musica che di quelle grandi coppie è stata la colonna sonora, ma ci sono molti dubbi al riguardo. Questa è Graham Nash, per esempio, questa è la versione originale di Better Days, che è uno dei pezzi manifesto di un disco manifesto, manifestissimo, che si chiama Songs for Beginners, canzoni per principianti, che proprio di quella America impegnata, seria, convinta, colta, civile anche direi, è stato uno dei dischi appunto più rappresentativi. Non è un caso che per parlarvi di suoni nuovi vi parliamo di suoni vecchissimi, di questo tributo a Songs for Beginners. Hanno rifatto l'intero album dei musicisti giovanissimi, dei musicisti di oggi, e l'hanno rifatto canzone per canzone con grande dedizione. Per esempio questa Better Days di Graham Nash viene rifatta come la sentite ora da Brendan Benson, che è invece un ragazzotto di 26-27 anni, forse lo avete presente, ha fatto parte di un gruppo progetto un po' impermanente ma interessante degli ultimi tempi, che si chiama The Raconteurs, e questa è di nuovo Better Days da Brendan Benson. Mica male questa versione di Brendan Benson, molto fedele, molto rispettosa dell'originale. Vi ricordo allora questo disco tributo a Graham Nash, si chiama Be Yourself, l'album, ed è il remake integrale di Songs for Beginners, il famoso album di colui che poi fu anche membro di Crosby, Stills, Nash & Young. Insomma, stiamo veramente parlando di memoria rivissuta, no? Riattualizzata. Pochi minuti fa, in chiusura della seconda parte, avete ascoltato per l'appunto Be Yourself, un vero e proprio inno, no? Sii te stesso, che tanto successo ebbe all'epoca, tanta capacità evocativa, è anch'esso nella scaletta di questo tributo a Graham Nash. La reinterpretazione è di un altro personaggio molto interessante, 24 anni, viene da Seattle, continua a passare Seattle oggi in trasmissione, si chiama Robin Pecknold ed è il leader barbutissimo, adesso sono tutti barbutissimi, di una grande nuova band che si chiama Fleet Foxes. Ecco come rifà Be Yourself. Don't see your eyes, look in his eyes, they won't tell lies, but if he defies what you see, he'll give you a key. Be abbiamo almeno fatto sentire, no, questo ritornello celebre, ci dà la chiave per ritrovare la propria dignità, canta Robin Pecknold rifacendo Graham Nash. Be Yourself, sii te stesso. Questi sono suoni che, come dicevamo, attraversano in un certo senso il passaggio di millennio, no? Arrivano da quella America baby boomer, da quell'America così diversa, America degli anni 60 70, ma sono attuali, sono coltivati, sono rispettati, sono venerati, sono amati anche dai musicisti di oggi, e ci sono band che li rifanno, come abbiamo appena sentito, che li fanno, creano ovvero sonorità assai simili. È il caso ad esempio di una nuova band che già nel suono, già nel nome risuona di cose vecchie, non so, risuona di Neil Young, no? Per esempio si chiama Band of Horses, la banda dei cavalli. Ha fatto un nuovo disco che è stato recensito entusiasticamente negli Stati Uniti, si chiama Infinite Arms, e questo è il brano che dà il titolo all'album. Figure. This kind of exhibition is really unique. The public will see something they never saw before, and I hope they will like it, and I hope they will really have the different and change opinion about performance art. Non so voi che opinione abbiate, ammesso che ne avete una, perché mica è obbligatorio, su Marina Abramovic, la performer, più popolare probabilmente della scena artistica contemporanea internazionale. Ogni volta che ne inventa una nuova, il mondo ne parla. L'ultima in particolare, l'abbiamo messa addirittura in apertura delle nostre figure della puntata di oggi, perché ci è sembrata in un certo senso certamente la più stravagante, la più provocatoria, è la performance durata diverse settimane e andata in scena al MoMA, al Museo d'Arte Moderna di New York, che sotto il titolo The Artist is Present, l'artista è presente, e consisteva nel fatto che per l'appunto Marina Abramovic era lì seduta su una sedia davanti alla quale era posta un'altra sedia, poi più in là, però questa attenzione non era parte della performance, o forse sì, io poi non sono molto bravo come critico d'arte, c'era la fila di quelli che aspettavano, perché aspettando che cosa succedeva? Che ci si poteva andare a sedere sulla sedia davanti a Marina Abramovic e a quel punto guardarsi in faccia, no? All'artista è presente. Tu sei lo spettatore, la dittatura è lo spettatore, sapete tutte queste cose qua, ci si guarda a vicenda. Marina Abramovic, ho visto il video, ti guardava anche con una faccia piuttosto non inquietante, insomma interrogativa, come dire, beh, fai qualcosa, e hanno fatto, a voglia se hanno fatto gli spettatori, perché naturalmente superato, no, lo shock, perché poi pare che ci tornassero, c'è anche un nome che avevano i giornali americani, danno comunque a quelli che ci tornano tutti i giorni, allora quelli che ci tornavano si sono organizzati, hanno capito che della cosa si poteva fare un po' virtù, no? Si poteva avere un po' uno spicchietto, il quarto d'ora di popolarità anche altri. Qui c'è per esempio un, anche lui suppongo artista, che si è seduto davanti a Abramovic, si è messo due dita in gola e gli ha vomitato davanti, probabilmente per dimostrare il proprio dissenso con la performance di Marina Abramovic. Un'altra signora, pare anche così molto notevole nelle forme, si è seduta davanti a Marina Abramovic, ma subito dopo si è alzata e si è spogliata tutta nuda, e sempre le guardie che man mano che passavano i giorni della installazione di Marina Abramovic stavano più vicine, perché avevano capito che la cosa, ma che aria tirava al MoMA in quelle ore. È finita fra grandi discussioni, grandi critiche, anche qualche tirata d'orecchia a Marina Abramovic, se lo doveva aspettare, ma forse però invece il discorso è proprio il contrario. Lei ha fatto tutto questo proprio perché, essendo artista intelligentissima, molto più intelligente e preveggente di noi, aveva capito che sarebbe successo tutto questo, e la performance era proprio tutto questo qua, no? La nudità, il vomito, la polemica, l'arte, il caos, eccetera, eccetera, eccetera. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Can climb so high, I never wanna die. Get your motor running. Se ne sono andati in due dal dorato mondo dello show business internazionale in questi ultimi giorni, li ricordiamo insieme perché ci sembrano comunque uniti da un filo rosso, anche se sottilissimo, ma che è quella della differenza. Sono state l'incarnazione di due modi irregolari di essere famosi e per questo hanno raccolto tante simpatie, anche le nostre, e hanno attraversato, dire, in modo brillante, intenso, non ripetitivo, non stucchevole, lo show business degli ultimi decenni. Dennis Hopper se n'è andato a 74 anni dopo quella strana, tra l'altro, cerimonia, no? Gli hanno fatto mettere sull'Hollywood Boulevard anche lui l'impronta, ma lui il giorno prima era cascato, si era sfasciato la testa, è andato là tutto incerottato, è riuscito ad essere grande e trasgressivo anche nella ultima occasione. Comunque Dennis Hopper resta il ribelle senza causa, forse ancora più del James Dean, che era suo amico, insieme al quale aveva cominciato. Pensate da quanto lontano arriva quest'uomo, che peraltro ci teneva sempre a dire: guardate che sono 30 anni che non tocco le droghe, non tocco l'alcol, sono diventato salutista e tutto il resto. Allora lui restava l'incarnazione del maledetto, insomma, l'uomo che insieme a Capitan America attraversava quel paese quando era ormai diverso per sempre da come era oggi nelle scene di Easy Rider, no? Chopper, la libertà e la paura, come recitava lo slogan di quel film. Ah, siete arrivati, signori, benvenuti. Sta parlando con noi? Certamente. Ma guarda che roba, nei quartieri alti da due minuti e già siamo diventati signori. Entrate. Oh, signor Drummond, posso dargli una mano con i ragazzi? Ragazzi, questa è la signora Garrett, la nostra governante, Willis e Arnold Jackson. Salve. Salve, ragazzi. Lei è veramente in gamba. Signora, è sicura di essere bianca? Sì, solo i miei capelli sono ossigenati. Now the world don't move to the beat of just one drum. E come sapete se n'è andato anche il mio amico Arnold, ovvero Gary Coleman, 42 anni, si è sempre ragionato, c'è chi diceva: no, guarda, quello c'ha 70 anni, era quando c'era il bambino, era nanetto, no, invece no, no, lui ha fatto tutto regolare, era solo un poco meno alto degli altri, ha avuto però anche grazie a questa differenza, come dicevamo prima, una carriera notevole a Hollywood, e ne vogliamo sottolineare la dipartita, oltre che per il naturale dispiacere, per come Coleman abbia incarnato durante il suo passaggio nel mondo dello spettacolo, soprattutto quella celebre serie televisiva, no? Different Strokes, in Italia il mio amico Arnold, abbia incarnato la questione razziale in una chiave che è totalmente diversa da quella a cui ci siamo abituati oggi, ed è interessante rivedere quei vecchi episodi, quei vecchi telefilm anche per questo, per capire che le cose non stanno ferme, le cose cambiano, no? I due ragazzini neri poveri del ghetto adottati dal ricco newyorkese bianco con la governante erano il simbolo, il sintomo di un'America che già non c'è più, già si è spostata, ma quello era il 1978. Esplose nei salotti di tutta America questa strana storia che aveva un margine di originalità grazie anche e soprattutto alla incarnazione del personaggio di Arnold, che rese in un certo senso eterna, no? Il passaggio nel mondo dello spettacolo di Gary Coleman. Hello Carla, welcome to Eurotrash. What have you in your bag? Your shopping tips. In my shopping bag I've got two books tonight. These are the new hot international love. Allora, and giusto, sex. Due citazioni. Uno per la signora qua sotto, ascoltiamo un attimo ancora. Love and sex in seven different languages. We have French, we have Italian. Inglese scolastico, ma correttissimo. Carla Bruni, qui è semplicemente un invito a fare un giro in rete, perché questo documentarietto si chiama In Tube with Carla, ovvero la definitiva, totale, micidiale dissacrazione di Carla Bruni attraverso un montaggio delle sue vecchie apparizioni televisive, laddove la First Lady, insomma, ha fatto la sua sana vita, ma perché adesso dobbiamo poi strafogarci nel perbenismo? Le cose non stanno così, le cose stanno differentemente. Qui c'è Carla Bruni che duetta in un programma il cui titolo era tutto un programma, Eurotrash, figuratevi, condotto niente meno che da Jean-Paul Gaultier, e parlava di porcherie formidabili, ovvero del suo dizionario di come fare sesso, di dichiarare le proprie preferenze sessuali in 7 lingue diverse. Lei lo faceva in modo così civettuolo, molto partecipativo. Insomma, pare che si siano arrabbiati moltissimo, pare che abbiano provato a farlo sparire la circolazione, ma si sa, da YouTube, dalla rete in genere, nulla si nasconde, la frittata è fatta, ma in fondo, come dire, se la salute c'è, va bene. Io vi faccio sentire solo le voci, perché tanto lo sapete, la grande festa finale è in atto, il party di fine stagione degli amanti dello sport, degli sport, della pallacanestro, NBA Finals. In scena in questi giorni la classicissima è quella che migliore non si poteva attendere, Boston contro Los Angeles, ma magari ne riparliamo la prossima volta. Magari avremmo capito chi vince, forse no, avremmo capito se Kobe è stato abbastanza buono o discolo sul campo. Poi ricordatevi di Marina Abramovic, ricordatevi di cercare Carla Bruni sulla rete se avete tempo a perdere, rievocate gli anni 60-70 della musica americana West Coast con Graham Nash e gli epigoni di oggi, leggete Christopher Hitchens e magari scoprite Gli ultimi vampiri di Justin Cronin. Sono i suggerimenti di Anni 10, dove ci sono io, che sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia c'è Alessandro Chiappini, un indirizzo mail anni10@radio24.it, un profilo Facebook Anni 10 e Anni 10 Radio 24 per risalire ai prodotti in questione. Un augurio di stare tutti bene e ci risentiamo.